Per quanto riguarda invece la mia presentazione, idealmente passerei in rassegna tre tempi, tre dimensioni, tre aspetti. Una è più classico, tradizionale ed è un percorso di quello che per comunità, per assemblea, per chiesa si recupera nell'Antico Testamento in modo molto a volo d'uccello. Con l'arrivo al nuovo, perché in realtà è in quella prima parte, non è di Antico Testamento, ma merita metterlo lì insieme, è un po' l'approdo a Gesù. Una seconda parte, più concentrata su che cosa negli Atti degli Apostoli si presenta di questa comunità, quindi mettendoli un po' da parte perché meritano un'attenzione particolare. Dovevo far partire, scusa. E infine, terza parte, ritorno su questo versetto che fa un po' da slogan, dove sono due o tre riunite nel mio nome. È una buona occasione per parlarne e presentarne, visto che, come dicevo prima, io lo cito spesso scherzosamente, quando capita che mi chiamino dicendo però per poca gente dispiace quasi aver fatto venire, io dico sempre che nel Vangelo è previsto un numero legale, che è questo qui di Matteo, quindi due o tre. Io sono uno, se c'è solo un'altra persona discutiamo se farlo o no, ma se ce ne sono altre due si fa, perché il numero legale previsto dal Vangelo c'è, quindi ci siamo dentro assolutamente. In realtà quel passo è particolarmente interessante e significativo. Al di là della battuta mia, che resta molto sul superficiale, ma ci arriviamo. Una prima presentazione, dicevo, a volo d'uccello, che non affronta tutto, non tira fuori tutto, ma richiama almeno alcuni passaggi che possono essere significativi. Il primo ci porta all'Esodo. Capitolo 19 del libro dell'Esodo, noi troviamo un percorso che è significativo, perché il contesto culturale da cui questo libro viene è il contesto culturale semita in cui importa il clan, la famiglia di famiglie. È anche un modo retorico con cui il mondo semita antico interpreta l'esistenza. Contano più che le entità statali che poi esistono, contano i legami familiari e di una famiglia allargata. Tant'è vero che anche i legami, alleanze e inimicizie politiche vengono rivestite di una sovrastruttura, perché spesso è quella, è familiare. Pensiamo a cosa succede con i rapporti di Giuda con Edom, che sta lì al sud, rapporti conflittuali perché sostanzialmente sono su uno stesso territorio con uno stesso stile o molto simile. Chi è Edom? È il discendente di Esaù, il fratello gemello di Giacobbe, però appunto con tutta la storia che con Ammoniti e Moabiti che sono di là dal Giordano e che hanno strutture un po' diverse su cui, gli ebrei, verso cui gli ebrei guardano con un certo distacco e disprezzo. Chi sono? Sono i figli di Lot, che a sua volta era cugino di Abramo, benché con una origine un po', insomma, discutibile. E poi chi invece sta ancora più in là, con cui si è in un rapporto di alleanza complessa, ma di alleanza sostanzialmente, ma quelli sono gli Ismaeliti, i figli di Abramo a loro volta. Tutto viene ricostruito in chiave familiare, perché è il contesto culturale che va in quella direzione. In questo contesto culturale si dà per scontato che legami dati da legami parentali non possano essere riformabili. Se Ismaele è in rapporto con Isacco in quel modo lì, figlio della schiava con cui giocava, ma visto di malocchio questo da parte del padre, anzi della madre per essere precisi, quella è una dimensione che deve restare vera nella storia e non si può cambiare. Questa è ideologia, è sovrastruttura. In realtà quando cambiano le alleanze si cambiano i racconti che stanno alle spalle. Però è interessante che questo sia il modo di leggere le cose. Perché è interessante? Perché in Esodo si ragiona in modo diverso. Perché dentro a questa struttura anche i legami di affiliazione e di fedeltà sono dati e non si possono cambiare. Invece, nell'Esodo, succede che un Dio che si ricorda lui, perché il popolo non lo invoca, di venire in soccorso di un popolo che non sa neanche più di essere popolo, ma che viene perseguitato, e che lo porta fuori dall'Egitto, una volta che lo abbia condotto fuori, liberato, come su ali d'aquila, appunto questa è la formula citata qui, non si pone nella condizione di esigere fedeltà a questo popolo, ma pone il popolo davanti ad una scelta. Voi avete visto come vi ho condotto qui come su ali d'aquila. Ora, se voi vorrete, io farò di voi un popolo di sacerdoti. Se voi vorrete. Quello è un dettaglio che a noi sembra quasi superficiale, ma perché noi siamo figli del nostro tempo e della nostra cultura, in cui l'assenso alla libera scelta va concesso anche solo formalmente. E non è questo però, non è il mondo da cui questi testi vengono. Quel se vorrete è pesantissimo da parte di un superiore che pone all'inferiore, comunque il rapporto Dio-uomo è un rapporto da superiore ad inferiore. Che in Israele lo si racconti come alleanza, cioè sostanzialmente alla pari, è già molto significativo ed è coerente con quello che sto dicendo. È un Dio che pone l'interlocutore umano non sotto di sé, dove è, ma alla pari con sé, dove non è ancora, come minimo. Da cristiani possiamo dire è quello a cui l'uomo è chiamato, va bene, non è detto così nell'Antico Testamento, ma l'uomo viene trattato alla pari da Dio. E i passi sono tanti, ma li tralascio perché oggi ci interessano meno. È interessante l'applicazione, è coerente con questo, il dire se vorrete, io sarò il vostro Dio e voi il mio popolo. Farò di voi un regno di sacerdoti. Vi costituirò come mia eredità, messi a parte per me. Santi per Dio e regno di sacerdoti sono formule interessantissime perché c'è l'idea della riserva. Santo di per sé vuol dire quello, messo da parte, riservato. C'è un antropologo biblico, cioè io sono debitore a lui, della forma, che la chiarisce con questo esempio. Quando noi andiamo al supermercato, iniziamo a provarci dei vestiti o prendiamo degli oggetti e li mettiamo nel carrello, quegli oggetti non sono già nostri perché non li abbiamo pagati. Ma se qualcuno viene e ce li prende dal carrello, è in debito, è un'offesa, è mio. Perché è tuo? Non l'hai pagato, non è tuo. Non importa, l'ho già messo da parte per me. Il fatto che non sia mio formalmente non vuol dire che da un punto di vista simbolico ed è significativo relazionale quello sia già mio. Tu non puoi venire a toccarmelo perché è per me. E quella l'idea della riserva è qualcosa che resta formalmente autonomo. L'uomo non è di Dio, ma resta messo da parte per Dio, come Dio non è dell'uomo, ma è messo da parte per l'uomo. A mettere da parte è la relazione. È il fatto che tra Dio e l'uomo si è instaurata una relazione che noi potremmo chiamare amicale, che potremmo chiamare personale, addirittura d'affetto, che il mondo dell'Antico Testamento chiama di alleanza. Ma non immaginiamo qualcosa di esteriore e di formale. Non è quella la berit dell'Antico Testamento, non è un trattato, è un patto. È la stessa differenza che c'è tra il nostro approccio moderno nei confronti dei trattati, che magari vanno anche rispettati ma che sono qualcosa di esteriore, e il rapporto di vassallaggio che c'era nella società feudale, dove non è che tu devi ubbidirmi perché hai firmato un contratto, ma perché tu sei in relazione con me. Tu non vieni a combattere per me perché c'è scritto nel trattato che abbiamo siglato. Tu vieni a combattere per me perché io te lo chiedo, perché siamo in relazione. Che tu sia sotto a me, inferiore a me come mio vassallo, non toglie che siamo in relazione. È quella la dimensione. Centrale è la relazione tra Dio e l'uomo. E poi l'immagine del regno di sacerdoti è un'immagine interessantissima. I sacerdoti nel mondo ebraico sono coloro che, non solo nel mondo ebraico, fanno da intermediari tra l'umano e il mondo divino, che è quello di orizzonte. Noi da moderni potremmo dire orizzonte di senso, potremmo dire appunto rapporto con il trascendente. Poi su questo tema tornerò un poco verso la fine. Un regno di sacerdoti, i due termini normalmente non si incontrano. Nel mondo ebraico re e sacerdote sono due cose diverse. Il sacerdote è quello che fa questa mediazione tra il trascendente e l'immanente, diciamolo in questi termini, tra il divino e l'umano, tra il cielo e la terra, nelle due direzioni. Nel culto strutturato, codificato del Tempio, il sacerdote era colui che portava a Dio, faceva salire a Dio le offerte, gestendo i sacrifici, e faceva scendere all'uomo la volontà di Dio codificata nella scrittura, annunciandola e spiegandola. Questo era il compito intermediario, veramente. Il re è un'altra cosa, perché il re gestisce la vita, orienta, fa compiere delle scelte. I due filoni restano, almeno nel mondo biblico ebraico ufficiale, sempre divisi. Che gli asmonei poi le mettano insieme è un problema loro, ed è un problema sostanzialmente politico, non teologico. Cioè c'è un enorme problema teologico dentro quella scelta politica, ma comunque sono altre dinamiche. Altrimenti è interessante che persino nel mondo cristiano si sia faticato a riprendere insieme queste due mediazioni per Gesù. In Gesù si è visto facilmente la dimensione profetica, è quella che si vede. Si è recuperata con più intenzione, ma con senso, la dimensione regale, Gesù che fa cambiare comportamenti a chi ha davanti, che orienta il mondo perché funziona in un determinato modo. Quella sacerdotale era rimasta da parte finché non è arrivato qualcuno a scrivere la lettera agli ebrei e a dire che in fondo anche quella c'è in Gesù, è persino superiore a quella dell'Antico Testamento, ma è in qualche modo una novità, non è stata un'intuizione del primo momento, perché già l'idea di mettere insieme re e sacerdoti era un problema. Se re, idealmente simbolicamente, discendente da Davide, cioè della tribù di Giuda, non è sacerdote, discendente da Aaron, cioè della tribù di Levi, o uno o l'altro. Regno di sacerdoti è, formalmente parlando, improprio, non si può dire, ma serve in realtà a dire questa mediazione tra il divino e l'umano che cambia la storia, che agisce nella storia. che orienta i percorsi della storia, come fa il re. È un'intuizione, per dirla in modi formali, ideale ed escatologica, per dirla in altri termini è il sogno di Dio, è il progetto di perfezione verso cui andare, un popolo intero che sia al servizio di questa mediazione tra il divino e l'umano, operativo, agente nella storia. Che questa immagine si adatti bene alla idea di Chiesa è evidente. È più a quella di Chiesa che a quella del popolo storicamente dato. È un'immagine religiosa, non è un'immagine politica. Il sogno di Dio in Esodo non è strutturare la monarchia di Davide, con tutto il rispetto. Il sogno di Dio è un popolo in relazione con lui, in relazione personale. D'altronde, i comandamenti, la legge tutta, però prendiamo i comandamenti come figura riassuntiva, non sono semplicemente un elenco di cose da fare o da non fare. Sono una chiave di interpretazione del reale. Non mi dilungo a parlare dei comandamenti, ma spero che questo piccolo accenno basti. Più che un elenco di cose da fare o da non fare, sono: io sono tuo Dio. Quindi, siccome sei in relazione con me, che sono il tuo Dio, non avere altri dei, perché provare a cercarli che ce l'hai già. Quindi, non nominare il mio nome in vano, non fare di me ciò che non sono. Quindi, trova dei tempi per me, ricordati di santificare le feste. Quindi, riconosci da dove vieni, onora il padre e la madre. Quindi, rispetta la vita anche negli altri, eccetera, eccetera, ascendere. Ma è un ascendere a partire dall'intuizione di fondo che è: tu hai un Dio. Non sei solo, sei inserito in una dimensione di senso che è relazionale. Io sono il tuo Dio, non generico, il Dio dell'universo, tuo. Che questa dimensione, quindi, intanto religiosa, l'Antico Testamento parla tantissimo di storia politica, però lì dentro percorre, c'è sempre questo filone in cui essenziale è la relazione con Dio e non la strutturazione in uno Stato. Che questo resti centrale viene detto in modi vari, diversi, strada facendo. Viene detto persino in Esdra e Neemia, anche lì. Fare una cosa seria vorrebbe dire andare a studiare bene che cosa possiamo tirare fuori da questo ritorno degli esiliati in Israele. È un gran pasticcio, i due libri di Esdra e Neemia non è che aiutino troppo a chiarire le cose bene, lasciamolo da parte. Non fa niente per noi oggi, ci interessa che ci sia un comprensibile desiderio di ritorno nella terra promessa, terra dove scorre latte e miele, molto idealizzato come progetto, come quadro, la terra che Dio ha scelto per il suo popolo, di nuovo che Dio ha scelto, ma e dove sappiamo che in realtà i più non hanno deciso di tornare, ma non importa appunto la storia, importa che lì dentro, persino in un contesto che è di restaurazione politica, e anche di restaurazione politica con delle scelte non apertissime e illuminate, la decisione di mandare via le mogli che non siano ebree non è una decisione di dialogo o di apertura, ma anche lì si dice che ad essere chiamati ad entrare in questa comunità sono non semplicemente i discendenti ebrei, non semplicemente quelli che abitano lì. Non c'è intanto una scelta etnica e non c'è una scelta geografica, c'è una scelta che politicamente dovremmo dire ideologica, cioè di chi si riconosce in un determinato progetto di relazione con Dio. I libri di Esdra e Neemia dal punto di vista spirituale sono discutibili per tanti aspetti, ma persino lì c'è l'idea che la presenza in questa comunità non dipende né dalla nascita né dalla geografia, ma da una decisione, da una scelta, da un'adesione ad un progetto, cioè da un libero entrare in una relazione personale con Dio, che comporta delle conseguenze storiche, anche politiche, eccetera, ma che intanto è una relazione libera con Dio. Tema che torna, D'altronde è un tema che torna, e magari ci muoviamo più a nostro agio perché i profeti li conosciamo un po' meglio e sono un pochino più spirituali, tra l'altro, che torna nei profeti. Perché da una parte cosa c'è? Anche qua sarebbe forse bello affrontare, passare le varie citazioni, i vari testi, ve ne affido, nel senso che non ci sarebbe neanche il tempo di farlo e forse non è il caso. Li abbiamo più o meno in testa, presenti. C'è il continuo appello dei profeti ad una adesione a Dio che non passa solo da un'adesione formale. Sono i giorni in cui abbiamo risentito: ma pensate che il digiuno sia piegare la testa come un giunco e vestirsi di sacco e coprirsi la testa di cenere? O il digiuno che voglio io è piuttosto spezza le catene agli oppressi, dai salario ai lavoratori, eccetera, eccetera. Cioè, una relazione che non passa da un'adesione formale, che è la tentazione costante di tutti i movimenti ideologici, di cui le religioni fanno parte, perché quella è l'idea. Dire: sono dentro perché ho fatto queste cose. E se ho fatto queste cose sono tranquillo perché ho fatto il mio dovere. È tentazione umana, universale, che l'ebraismo conosce, che la Chiesa conosce, la Chiesa cristiana conosce, eccetera, eccetera. E contro cui i profeti si scagliano. Aderire a Dio vuol dire pensare come Dio. E anche se la legge non prevede che tu faccia certe cose, è coerente con la sintonia, con il cuore di Dio, che tu le faccia. Se ti chiede di mortificarti la legge, tu cogli che un'adesione formale alla mortificazione senza che vada nella direzione del progetto di Dio non ha senso. Innato questo. Poi, a me pare che tirino fuori soprattutto i profeti intorno all'esilio, per cui Geremia, il secondo e terzo Isaia, lo stesso Ezechiele. Non mi infilo nei minori, però anche lì ce ne sarebbero, però insomma c'è già un certo peso profetico, insomma, in questi testi. Tirino fuori, mi sembra, regolarmente tre aspetti. Primo, anche altre cose, però per quello che mi servono. Primo, contemporaneo legame con il passato e apertura al nuovo. È il Dio di Israele, è il Dio dei vostri padri che vi può dire: non ricordate, faccio una cosa nuova. Ma sono io. Vengo da quella storia e mi apro al futuro. Una strutturazione di questo tipo ha senso nella misura in cui è relazionale. Perché se fosse formale, dimenticare il passato è facile, benissimo, ricostruiamo qualcosa di nuovo. Se fosse semplicemente recupero del passato, di quello che ci siamo detti, di per sé l'apertura al futuro resta incerta. Bisognerà vedere se queste norme sono ancora adeguate, se vogliamo ancora aderire, eccetera, eccetera. È nel relazionale che il rapporto, il legame passato può aprirsi al futuro. Come ho fatto nel passato, facciamo una cosa nuova. È insensato da un punto di vista logico, se non relazionale. Come ho fatto nel passato, facciamo una cosa nuova insieme, ha senso in un rapporto in cui la storia insieme non ha il suo fulcro in ciò che si è fatto, ma nel insieme. E se il fulcro è nell'insieme, può essere sensata una promessa di cose nuove da fare insieme nel futuro. Una promessa. La promessa non è una garanzia, non è un'assicurazione e si basa sull'affidabilità della relazione, non del progetto. E questo nei profeti emerge. Non c'è il dire sono stato capace di vincere i Moabiti, quindi vedrete che vinco anche i Babilonesi. Non c'è mai questo discorso. Non è quello il punto. Sono stato fedele ad Abramo, Isacco e Giacobbe e quindi farò una cosa nuova per voi. Relazionale. Che non chiama necessariamente tutto il popolo. Seconda cosa. I profeti iniziano a parlare di un resto. Di un resto che per il primo che l'ha tirato fuori probabilmente era quelli che rimanevano lì. Geremia poteva pensare a quello, ma poi Geremia stesso fa anche un discorso per gli esiliati dicendo compratevi casa perché Dio continua ad essere in rapporto con voi. Fate il bene del paese che vi ha conquistato, che vuole anche dire ma se continua ad esserci poi li abbatte. No, non li abbatterà, non è quello il punto. Continuerà ad essere in relazione con voi. Ma il resto, strada facendo, parla sempre di più di chi ci sta ad entrare in una relazione con Dio così. Una relazione che non si può più appoggiare al Tempio, che non si può più, poi sì, ma vabbè, che non si può più appoggiare ad un re, questo proprio no, che non sta più dentro le regole del passato, ma che resta. Resta la relazione. E resta chi in quella relazione vuole stare, perché la relazione comporta quello. Le leggi di una società, di uno Stato, possono essere imposte. La relazione no. La relazione è scelta dalle due parti. Il resto parla di questo, parla di una relazione di Dio con quello che rimane di un popolo, cioè con chi decide di restare. E ritorniamo alla scelta di partenza di Esodo. C'è una decisione. C'è un Dio che accetta di scendere a patti con l'umano sopportando la possibilità di un rifiuto. Questo è chiaro, perché nella relazione quello c'è. Quindi, dimensione relazionale, perché parte dal passato e guarda al futuro. Dimensione che, coerentemente con l'essere relazionale, è di scelta, un resto vuol dire non tutti. E, coerente ma non prevedibile, apertura ad altri, che non sono inseriti in quella dimensione di partenza. Il resto parla di una selezione a partire da un blocco che c'è. Tutti gli ebrei decideranno di restare in questa relazione nuova con Dio? Forse no. Di fatto no. Ma non si parla di allargare la base. E invece i profeti arrivano anche a parlare di allargare la base. Verranno stuoli da Efar, da Edan e porteranno ricchezze a te Gerusalemme. Verranno i tuoi figli da lontano che tu non conosci. Perché tu non sai chi ti arriverà. E sono tuoi figli Gerusalemme, ma tu non sai chi siano. in forme diverse, sono accenni, soprattutto in Isaia, secondo e terzo Isaia tantissimo, sono accenni timidissimi in Ezechiele, ma proprio timidi, timidi, timidi. Sembra quasi di dire l'indicibile, che arriveranno altri che non sono ebrei e arriveranno a ricostruire la città, che a questo punto non è semplicemente la città di mura, ma è una relazione. La città sognata dall'Ezechiele della fine del libro è chiaramente una idealizzazione sognata, questa città di, che è cubica sostanzialmente, senza la notte, con quattro fiumi dentro, cioè, tutta una roba strana. I capitoli dal 40 al 48 di Ezechiele prospettano questo, che è un sogno, ma chiaramente, che è un sogno che parla anche di genti che verranno, persino in Ezechiele, in Isaia molto di più. Com'è possibile quello? È imprevedibile, sì, ma parla di nuovo di una relazione con Dio, perché l'unica modalità è coerente con quella relazione. Perché vengono? Perché dovrebbero ristrutturare, ricostruire Gerusalemme, che non sono neanche degli ebrei? Perché la relazione è con quel Dio che è degli ebrei. Sono tuoi figli non perché tu li abbia generati, ma perché vengono da Dio. È la struttura non cronologica, ma logica, che ci fa chiesa. Non siamo chiesa perché ci conosciamo, abbiamo deciso di fare un'associazione tutti insieme, perché ci fidiamo, perché abbiamo gli stessi interessi. Siamo fratelli, non perché veniamo dagli stessi genitori, ma perché in relazione con Gesù scopriamo di avere lo stesso padre. Dopo, la Chiesa funziona così. Si entra nella Chiesa storicamente per i motivi più svariati, e va bene così, ma si resta strutturalmente nella Chiesa perché si scopre Gesù. E gli altri sono fratelli, non perché mi stiano simpatici, ma perché si fidano dello stesso Gesù e si riconoscono quindi nello stesso Padre. È la stessa struttura all'opera nei profeti. È diverso il contenuto, è imprevedibile quello che è successo in Gesù, ma è coerente. I profeti già parlano di quello, ne parlano in modi che anche loro ogni tanto sembrano di non capire fino in fondo, di intuire delle cose. In fondo di intuire che un Dio, come lo hanno conosciuto, non può che coerentemente andare in quella direzione lì, dicendo delle cose che a loro stessi ogni tanto sembrano assurde. E quindi, più che dirtele, più che dimostrarle, come io adesso mi posso permettere di fare 2500 anni dopo, tutto molto più facile, no? Le balbettano, le buttano lì, le accennano. Ma queste sono. Ossia, con una dimensione, Esodo, Esdra, Neemia, profeti, che è fondamentalmente relazionale con Dio. Se dico delle cose banali, sono contento, nel senso che la forma assunta dalla Chiesa non è sempre stata questa. La Chiesa tridentina è una Chiesa strutturata, è una Chiesa di regole, di confini netti, dentro fuori. Ovviamente viviamo in un tempo ecclesiale che è completamente cambiato. Nella forma, nei contenuti ancora stiamo faticando a ritornare al Vangelo, perché poi quello è appunto il Vangelo, e così poi finisco la mia prima parte, che rischiava di essere quella un po' più lunga, quindi confortatevi. Prendo tra i passi possibili la chiamata dei dodici in Marco. Perché? Perché quella un pochino, come spesso Marco fa, è quello un pochino più asciutto, secco, chiaro. Modello base, va dritto al punto, senza grandi sovrastrutture, grandi infioramenti. fece 12. 12. Lo sappiamo, avrei voluto saltare, però forse è bene dirlo. In una determinata lettura ecclesiale di una chiesa pensata come struttura gerarchica ben organizzata e dai confini netti, questi, i 12, sono immagine dei vescovi, perché sono sopra gli altri. Ora, proviamo a tenere sullo sfondo, ma anche a cancellare questa immagine e tornare al Vangelo. Cosa dice? Anche qua io confido serenamente che non stia spiazzando nessuno, perché siamo tutti amici di Donji che queste cose le spiegava già molto prima che non sono certo io a svelarle. Ma ce le richiamiamo. 12. 12 non è un numero banale. Nell'ebraismo 12 chiaramente rimanda ai 12 patriarchi, che restano 12 anche quando, per il mutare delle alleanze, il nome delle tribù cambia, non fa niente, sempre 12 restano. Ed è quello che faranno i discepoli, perché quando dopo la risurrezione decideranno di trovarsi ancora e restano 11 perché uno ha tradito e si è ucciso, e non va bene restare 11, e trovano il modo di inserire un 12esimo, perché devono restare 12. Allora è chiarissimo che quel 12 è significativo, è simbolico, è il numero che conta. E il numero nel mondo ebraico parla delle tribù, cioè dei patriarchi. Tra parentesi, ecco perché sono tutti maschi, tra l'altro. Perché i patriarchi sono maschi. Ma simbolicamente il patriarca sono tutti i suoi discendenti e anche donne. Quindi il senso simbolico esigeva comunque che fossero maschi. Poi possiamo fare tutte le altre considerazioni che vogliamo sulla opportunità culturale che siano maschi, anche se appunto non ci sono solo uomini nell'entourage di Gesù, come Luca 8 di Striscio ammette, e come gli atti nel cenacolo lasciano intendere, senza dirlo troppo forte perché poi qualcuno si sconvolge. Ma i patriarchi devono essere uomini, perché se no non funziona il rimando simbolico. È come se dire, ma sì, ma 12, 11 più o meno. No, più o meno, se il rimando simbolico deve essere preciso, se no non regge. E infatti lo integreranno con il 12esimo, quando sarà il caso. Sono cioè immagine della comunità dell'Antico Testamento, di una nuova comunità dell'Antico Testamento raccolta intorno a Gesù, che lui fa, costituisce. Sono immagine della nuova comunità che si raccoglie intorno a Gesù, sul modello di quella dell'Antico Testamento, che abbiamo già colto non è innanzitutto legale, sociale, ma è innanzitutto relazionale e scelta. I quali chiamò anche apostoli, vabbè, a parte che forse Marco non l'ha scritta questa frase, ma non mi interessa, non ci interessa adesso. Perché? Ok, finalità. Due finalità, e la seconda si struttura in due. Affinché stessero con lui, fossero con lui. Prima finalità. È chiaro che non si può ritenere che questo, cioè, tu mi hai detto che non sono i vescovi, ma è tutta la comunità, ma tu lo dici sulla base di un pregiudizio per cui ci vedi un simbolo dei patriarchi, eccetera. Sì, però lo scopo, stare con, essere con Gesù, non è una cosa riservata ad alcuni cristiani, di per sé siamo nella vita cristiana, appunto, qualunque. Stare con Gesù non vuol dire, sì, vabbè, al di là del, della contestualizzazione precisa dell'andare in giro con lui, e allora a quel punto c'erano anche altri che andavano in giro con lui. Ma se deve essere simbolo di, simbolo verso il passato, simbolo verso il futuro, e questo, in questo modo la Chiesa l'ha trattato, quindi non è un abuso probabilmente, stare con non implica starci fisicamente insieme. A noi questo comunque è precluso, neanche i vescovi possono stare fisicamente con Gesù. Stare con, essere con, è quella adesione relazionale che è la vita cristiana, di tutti i cristiani, dei battezzati che decidono di rendere vivo il proprio battesimo. E, secondo, affinché li mandasse, quindi stare, mandare, a fare cosa? A fare due cose. Ad annunciare, che cosa non viene detto, ma più o meno si intuisce, sarà Gesù, sarà il Vangelo, sarà qualcosa da quelle parti, perché non si vede perché dovrebbero annunciare altro, visto che il cuore è stare con Gesù, e ad avere il potere di scacciare i demoni. Peta, perché io fin qui ci sono, cioè allora, fino a stare con Gesù e ad annunciare ce la posso fare. Ma però poi mi metti subito uno scalino altissimo, io come faccio a scacciare i demoni? Cosa vuol dire? Devo mettermi a fare i miracoli? Se no non sono con Gesù? Qui non ci siamo più. Allora, noi non dimentichiamoci che questo passo del capitolo 3, versetto 14-15 di Marco arriva dopo i capitoli 1 e 2. Genialata, Dove troviamo che cosa? Troviamo un Gesù che è interessante, ma il primo capitolo e l'inizio del secondo sono interessantissimi perché danno proprio, mica per caso messi all'inizio, danno il senso di quello che Gesù intende fare. Allora, la prima cosa che fa Gesù dopo le tentazioni è chiamare alcuni discepoli, 4 subito. Poi va in una sinagoga e a Cafarnao trova un uomo indemoniato, pazzo scatenato, traduciamocelo in modi nostri, che però viene chiamato indemoniato, ma sì, ma è la lettura simbolica, è la lettura culturale, scusate, di quel mondo. Ma anche noi, quando diciamo fuori di testa, è chiaro che non è una descrizione. Ci immaginiamo che l'anima possa essere qualcosa che sta dentro il corpo o lo spirito umano che quando esce dalla testa non lascia più l'uomo capace di ragionare, eccetera. Sì, però è un'espressione che usiamo senza pensare che sia una descrizione scientifica. Non fa niente, la usiamo, il senso è quello. È una interpretazione che era culturale e che è rimasta. Chiamare indemoniati era il modo culturale di interpretare perché questi sono pazzi, e noi sappiamo che la pazzia ha come effetto nell'essere umano, anzi negli esseri che stanno intorno al pazzo, di allontanarlo. Ci fa paura. Ci sentiamo, è interessante la nostra reazione, noi mostriamo di ritenere che il cuore dell'essere umano sta nella sua capacità di ragionare e di interagire con gli altri in modo equilibrato. Una persona con una gamba rotta, una persona con un braccio amputato, non ci respinge. Un pazzo sì. Perché è come se sentissimo che è venuto meno il cuore dell'essere umano e irrazionalmente temessimo che in qualche modo questo sia contagioso. È irrazionale, ma gli istinti non sono razionali. Ossia, la prima conseguenza della guarigione dell'indemoniato è restituire questa persona alla relazione con gli altri. Ritorna a poter parlare, agire, stare con gli altri. Poi vanno in casa di Simone e la suocera di Simone è a letto. non può servirli, Gesù la guarisce e lei inizia a servirli. I maligni dicono, vedi, piuttosto che lavare i piatti lui, ha guarito la suocera. Ma se vogliamo, c'è anche una malignità peggiore su questo. Allora, da già ce la alleggeriamo un attimo, perché si dice che tra i biblisti ci sono due scuole di pensiero. C'è chi dice che Pietro abbia tradito Gesù, rinnegato Gesù perché gli aveva guarito la suocera. E c'è un'altra scuola di pensiero più raffinata che dice no, è al contrario, è Gesù che gli ha guarito la suocera perché sapeva che poi lo avrebbe rinnegato. Comunque, al di là qual è il ruolo sociale di una donna in questo contesto? Fuori dalla casa la donna non esiste. Non pensiamo che il mondo latino-greco fosse tanto meglio, ma anche quello ebraico era così. Dov'è il ruolo sociale di una donna? Quando ti arriva qualcuno in casa, dove tu sei la padrona di casa, sei quella che gestisce l'accoglienza, sei quella che ha un ruolo sociale riconosciuto. Se la suocera di Pietro, anche qua le dinamiche non dovevano essere molto diverse, non si parla della madre di Pietro, se c'è la suocera lì comanda lei, va bene, questo è chiaro. Se la suocera di Pietro è a letto quando arrivano degli ospiti, vuol dire che sta male davvero e che le viene negato la possibilità di una relazione sociale adeguata. Viene esclusa dalla socialità, dalla malattia, certo. Il fatto che inizi a servirli appena viene guarita non è, ma poveretta, era meglio se stava un po' a fare la malata, almeno non lavorava. No, è restituirla al suo ruolo sociale, a quello che è, in questo contesto, la sua possibilità di relazione con gli altri e con il mondo. Anche lì l'intervento di Gesù è a restituire al mondo. Poi si trova, vabbè, vari altre veloci cose, ma la guarigione successiva è quella di un lebbroso. Allora, il lebbroso cos'ha di problema? Che per legge religiosa è escluso dalla società con gli altri. Deve vivere da solo, deve annunciare da lontano il suo arrivare, deve usare cose che usa solo lui, eccetera, eccetera, per legge religiosa. E infatti Gesù lo guarisce e poi lo manda, vai a farti riconoscere, perché così, perché lì non basta essere guariti. Lì bisogna che la guarigione venga riconosciuta. E quindi vai a fartela riconoscere. E così ti restituisco alla socialità. Ma davvero è questo il cuore del discorso? Probabilmente sì, lo vediamo subito dopo, perché a un certo punto Gesù sta predicando, sempre a Cafarnao, c'è tanta folla intorno che non si riesce ad arrivare, vengono quattro che portano uno su una lettiga. E siccome non riescono a passare, passano dai tetti, lo scoperchiano, lo fanno scendere davanti, e Gesù, dopo tutto questo, dice, ti sono perdonati i tuoi peccati. Se non puoi guarirlo. Cioè, hai guarito un sacco di gente. Perché questo no? Poi lo guarirà anche, ma questo non è... Ma è più interessante quello che succede lì, appunto. Perché no? Cos'ha questo di più brutto di tutti gli altri? È qua che questa mia interpretazione come al solito, non è che sia io, che sono un po' di biblisti che ci ragionano su, torna ad essere interessante, perché ti dice, cosa c'è di diverso qua? C'è di diverso che se hai quattro persone che si fanno in 16 per te così, vuol dire che qua la tua malattia non ti esclude dalla relazione con gli altri. E infatti Gesù non la guarisce. Ma come? Ma non è venuto a portare evidentemente la sanità fisica, è venuto a portare relazioni rinnovate, possibili, peraltro con gli altri esseri umani. La prima metà del Vangelo di Marco non parla quasi di Dio, per essere più precisi gli unici che parlano di Dio sono i demoni, Quindi proprio un Vangelo dovrebbe parlare di Dio, no? Parla innanzitutto di relazioni ristrutturate tra gli uomini. E allora, quando poi nel capitolo dopo arriverà a dire avere il potere di scacciare i demoni, non è che probabilmente Marco intenda esattamente quello. Cioè, i demoni da scacciare sono quelli della divisione tra le persone, delle relazioni che non esistono, o che sono tagliate, o che sono chiuse. Allora, la chiamata dei dodici diventa interessante per stare con Gesù, prima cosa. Essere con Gesù, neanche stare, essere con Gesù, che è una dimensione di vita relazionale che non esclude la distanza fisica. Pensiamo cosa diciamo noi delle relazioni, prendiamo quelle coniugali, no? Non sono le uniche che funzionano così, però sono quelle più chiare. Dal simbolo nell'anello, perché? Ma perché non importa che io adesso non stia con mia moglie, sono con lei lo stesso, anche se a distanza, perché sappiamo di esserci l'uno per l'altro sempre e sappiamo che quella relazione resta sempre, si è insieme anche se non si è nello stesso posto, lì lo cogliamo. Se c'è una dimensione relazionale profonda, si resta insieme in ogni caso, esattamente quella che può essere vissuta con Gesù, che altrimenti io non so dove prendere. Sono con Lui, posso, se voglio, essere con Lui, anche se fisicamente non è qua. E anche per essere mandati. A fare cosa? Ad annunciare questa dimensione, questa bella notizia, questa persona, questo incontro, questa possibilità, e ad avere il potere, essere mandati ad avere il potere, non essere mandati a scacciare i demoni, ad avere il potere di scacciare i demoni. Cioè siamo in grado di rimettere le persone in relazione tra di loro. Perché? Il perché si può elucubrare, tante cose si possono dire, ma io posso dire come minimo perché sappiamo dalla relazione con, lo dico in questa formula genericissima, con questo trascendente, che la relazione è costitutiva dell'umano, non è un di più che si aggiunge. Siamo noi, siamo relazioni. E a quel punto per quelle si lavora. Questo, da una parte, non può essere ritratto come esclusivo di alcuni cristiani. Cioè, è l'essere cristiani. Verrebbe quasi da dire l'essere umani. Ma appunto, quanto più andiamo in profondità in Gesù e nel cristianesimo, più diciamo, sì, ma non è una cosa diversa. Ma infatti nessuno pretende che sia una cosa diversa. Anzi, se il cristianesimo è qualcosa di alternativo all'umano, è un problema. E infatti, quando lo è diventato, nella nostra tradizione teologica, è stato un problema. E se si rimette al centro che il cristianesimo ha quello come scopo di costruire costantemente una umanità piena, tanti anche problemi di confini, di chi è dentro e chi è fuori, onestamente, evaporano. Che importa? Faccio notare che anche già nel Vangelo c'è un approccio del genere. Signore, abbiamo trovato uno che scacciava i demoni, in nome tuo gliel'abbiamo proibito perché non è dei nostri, avete fatto male. Non c'è nessuno che possa scacciare i demoni in nome mio e subito dopo parlare male di me. Punto. Il problema è già risolto nel Vangelo. E mica sempre ci risolve così tutti i problemi ecclesiali, eh? Tiriamo cioè fuori una comunità che nel nome di, ti tornerò su questo nel terzo punto, in realtà costruisce un'umanità. Un'umanità fatta principalmente di relazioni. Con Dio anche, certo, ma intanto tra gli uomini. Non vanno in contraddizione, E quanto più faccio costruisco questa umanità che entra in relazione con gli uomini, tanto più mi avvicino ad una possibilità di relazione con Dio, come minimo. Le due cose non vanno in contraddizione, anzi, probabilmente si nutrono l'una dell'altra, ma ci arriverò alla fine. Seconda tappa. Prometto che le ultime due sono più corte della prima, che sapevo già che mi esplodeva tra mano. In realtà, degli atti prendo, ci sarebbe anche lì, teoricamente si poteva parlare 2 ore degli Atti degli Apostoli, non era un problema, anche 10 ore. Sul modello di Chiesa, su che Chiesa esce dagli Atti degli Apostoli, 10 ore di conversazione, c'è materiale, non c'è dubbio. Però, volendoci restringere un pochino, riprendo i riepiloghi, i sommari che Luca butta lì di presentazione della Chiesa. Li butta lì sapendo che in un caso, in un modo nettissimo e limpido, non vogliono dire, non sono delle fotografie della Chiesa, cioè non ritraggono quello che succedeva. Il secondo ritratto, tanto io poi mi fermo soprattutto sul primo e riprendo gli altri due di corsa, il secondo ritratto parla di condivisione dei beni. Ad esempio, Barnaba, Levita, vende un campo, invece Anania e Safira fanno tutto un pasticcio, per cui fanno finta di vendere, poi in realtà danno solo una parte dei soldi, eccetera, eccetera, no? Quindi, come minimo, è chiaro che non è vero che tutti lo facevano. Intanto perché se mi dici ad esempio uno, no, se lo fanno tutti, non tiri fuori un esempio, lo fanno tutti. E non mi tiri poi l'esempio contrario di chi non lo fa. Cioè è chiaro che non è una foto, è un ritratto ideale. La Chiesa dovrebbe essere così, doveva essere così, avrebbe dovuto essere così, anche allora lo era come poteva. Tutto in comune. Sì, però poi, 2 capitoli dopo, ci sono gli ellenisti che si lamentano che le loro vedove sono trascurate nella distribuzione dei beni. E la risposta dei 12 non è, oh cavolo, sì, ci siamo dimenticati, adesso cercheremo di fare più attenzione, ma dire, allora, sceglietevi 7 di voi che ci pensino loro. Non è il massimo di risposta ecclesiale. Nei fatti. Infatti poi guarda, di nuovo, una persecuzione poi è quello che porta a Stefano, è quello che porta al suo martirio, è alla persecuzione contro tutta la Chiesa, dice Luca, salvo che i 12 continuano ad andare tutti i giorni nel Tempio, tutti li conoscono e nessuno li tocca. Ma allora non è proprio tutta la Chiesa, non è che sarà tutta la Chiesa di lingua greca, di fronte alla quale anche i discepoli hanno la sensazione di dire spiace, sarebbe mica tanto giusto, però non muovono un dito. Anche la Chiesa dei primi giorni non è perfetta, e non vuol dire che sia da buttare via, perché non è l'alternativa tra perfetta o una spazzatura, no, è una Chiesa che prova a camminare in quella idealità, che sa che l'ideale è lì, e Luca te lo dice, dov'è l'ideale, non è che è. E poi fa cosa può. E se ci assomiglia, effettivamente, perché anche noi siamo così. Ma tante cose le intuiamo, bisognerebbe andare in quella direzione. Parlo di Chiesa, ma potrei anche parlare della vita di ognuno di noi. E poi ci provi, e certe volte ti viene un po' meglio, certe altre un po' peggio, e sai che non doveva andare così, e sai che... Perché non è che hai provato a tirare lontano e ti è caduto un po' più corto. No, no, io quella cosa non avrei dovuto farla così, lo so. Però mi è venuta così. Non avrei dovuto dire quella parola, non avrei dovuto chiudere quella porta. Lo so. Però onestamente non ce l'ho fatta, ho sbagliato. Capita. Cosa vuol dire che siamo da buttare? No, vuol dire che c'è una idealità che noi riconosciamo in noi, che è oltre quello che riusciamo a fare. È un buon principio per non sedersi mai e continuare a camminare. Anzi, non chiudo la parentesi, ma non la chiudo perché so di averla già detta anche qua, ma non importa, fa niente, la richiamo, ma ogni tanto mi piace troppo richiamare Io l'ho scoperta tardi, la formula esatta di consacrazione, parlo dei cistercensi, perché quella che ho scoperto così, ho detto, ma che bella! Povertà, castità, obbedienza, residenza, no? Le quattro promesse sono fatte in questa forma. Prometto davanti a Dio di tendere sempre verso la perfetta obbedienza. È bellissima! Non prometto di essere obbediente. Prometto di tendere verso la perfezione. Non prometto di arrivarci. Però so che là e cammino in quella direzione. E provare a continuare a rialzarmi e camminare in quella direzione, beh, quello lo posso promettere. Mi sembra di una umanità fantastica. Ed è coerente con quello che dirò alla fine. Boh, dopo. Dicevo, atti e sommari ecclesiali, che sono sommari ideali. Cioè la Chiesa dovrebbe essere così. Come? Allora, il primo sommario, su quello spendo un po' più di tempo, perché è spiazzante. Spiazzante appena ci accorgiamo che ha una struttura che si riesce a riconoscere abbastanza. Allora, qua devo fare di nuovo un po' di premessa, però mi perdonerete. Noi abbiamo dei modi nei saggi, tipicamente, di evidenziare quello che è importante. Usiamo i titoli, i paragrafi, usiamo il grassetto, il corsivo, usiamo i punti, in modo che tutto sia limpido, no? Che si capisca il senso. Anche io l'ho fatto. Avrò tre tappe, eccetera, eccetera, perché aiuta a muoversi. Ok. Sono criteri importanti, grossi, grezzi, grossolani. Perché? Ma perché noi leggiamo e scriviamo tanto. Cioè noi quanti libri avremmo letto nella nostra vita? Non sappiamo contarli. Io ricordo che Origene, non proprio un letterato di secondo piano, era noto, tra le altre cose, perché aveva la più grande, poi facciamo una delle più grandi, biblioteche personali, private, che contava 400 opere. Qui ce n'è di più, ce n'è tante di più. 400? Sì, ma quello è un mondo che fatica, perché costa tanto la scrittura, perché i materiali costano tanto, eccetera, eccetera. Il che vuol dire che i libri, che poi non erano libri, erano rotoli, fa niente, li consumavi abbastanza. Cioè non è che ti accontentassi di leggerli una volta. Noi prendiamo un libro, non parlo di un quotidiano, lo iniziamo a leggere e se non ci piace non lo finiamo neanche. Che problema c'è? Non è uno spreco, dai, no? Tanto resta lì, qualcun altro lo leggerà. In questo contesto, dove la scrittura era così pesante, anche i criteri letterari per capire le strutture dentro sono intanto più leggeri, perché non usano capitoli, paragrafi, eccetera, ma sono visibili, un po' perché sono abituati e un po' perché sono abituati a leggere e rileggere. Quindi io adesso vi dico una cosa su una struttura che può sembrare, detto, ma no, ma esageri, ma non si vede, ma se non me l'avessi detto non l'avrei riconosciuta. Certo, è possibile, perché abbiamo un rapporto diverso con la lettura e perché non siamo degli antichi, per cui noi abbiamo bisogno dei titoli, dei paragrafi. Con quello capiamo subito, anche una prima lettura. Ma con questa struttura, sto parlando di un chiasmo. Chiasmo vuol dire che c'è un primo elemento che è simile all'ultimo, e un secondo che è simile al penultimo, e un terzo che è simile al terzultimo. È un modo di costruire le frasi importanti, i discorsi importanti, che ovviamente funziona meglio se il chiasmo non è proprio troppo grosso, cioè se stiamo entro due o tre versetti, sì, perché riesco ad avere tutto presente, che l'antichità è abituata ad usare. In questa struttura l'elemento più importante è quello al centro. È fatto per essere riletto. Ah, guarda che è fatto così! Ovviamente funziona meglio anche se hai in qualche modo un elemento limitato che si presenta come isolabile. E questo nel sommario, peraltro, nel primo dei sommari ecclesiali di Luca, c'è, perché prima racconta delle cose, poi racconta delle cose e lì in mezzo fa erano tutti, quindi parti su un, anche solo da una lettura in traduzione moderna, che non facciamo particolare attenzione, perché noi abbiamo questo stile di lettura, non è neanche un male, cioè è diverso, noi leggiamo tanto di più. Quindi alla fine non puoi leggere tanto e in profondità tutto. Va bene così, non c'è da cambiarlo. Però bisogna essere consapevoli che loro usavano in modo diverso, semplicemente. Come se parlassero lingue diverse. Non è che una lingua è meglio di un'altra, però è diversa. Ho bisogno della traduzione. Bene, in questo, persino in traduzione ci accorgiamo che quel pezzo lì è un pezzo isolato. È facile quindi rileggerlo e coglierlo con più attenzione, e l'antico che leggeva lo avrebbe probabilmente riconosciuto il chiasma, lo avrebbe visto. Poi se non l'avesse visto, pazienza, succede come, avete presente quei film che sono fatti con tante allusioni ad altri film? È chiaro che quello è un gioco tra il regista, lo sceneggiatore e il fruitore, ed è chiaro che se cogli il rimando probabilmente il film parla meglio. Può anche darsi che tu non li cogli i rimandi, resti più in superficie, pazienza, qualcuno poi ti spiegherà, eccetera. Ora, questo chiasmo cosa vede? Erano tutti in preghiera e nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli e della comunione. Infatti alla fine si dirà che erano tutti in preghiera lodando Dio. Ta-ta. E, secondo elemento, nello spezzare il pane. Alla fine, verso la fine, si dirà penultimo, spezzando casa per casa il pane. Stesse parole, spezzare il pane, lo sappiamo, è la formula tecnica che nei primi giorni della Chiesa indicava l'Eucaristia. Attenzione, non è questo al centro. Perché noi abbiamo fatto dell'Eucaristia il tutto addirittura, neanche più il centro, il tutto. Ma qua no, c'è, certo che c'è, ma come c'è l'insegnamento degli apostoli e la preghiera. C'è la preghiera però, è l'elemento di contorno. Poi c'è l'Eucaristia, nello spezzare del pane e nelle preghiere. Ah, torna la preghiera, torna due volte, primo e terzo, ultimo e terzultimo. Quindi è importante, sì è importante, però non è al centro. E anche sotto dirà, prestando tutti insieme, frequentando tutti insieme le preghiere nel Tempio, va bene, prima dice preghiera, poi dice nel Tempio, però in ogni caso c'è questo ritorno. Quarto e quart'ultimo elemento, c'era un grande timore intorno perché c'erano prodigi e segni. L'ultimo dice, dividevano i beni. Effetto, segni, prodigi o condivisione dei beni. Al centro cosa c'è? Ed erano tutti verso una cosa sola, uno spirito unico, e avevano tutto in comune. Il cuore del discorso è la comunità, è il vivere insieme, è il vivere in comune, anzi è il sentire la stessa cosa. Quello che si verifica nelle comunità, in una famiglia, si spera. È un problema quando, è chiaro che sentire la stessa cosa non vuol dire avere lo stesso pensiero, ma vuol dire essere in sintonia di sentimenti. E la sofferenza di uno fa soffrire anche gli altri. Quello che in ogni comunità umana, stretta o meno, se è una comunità, sperimentiamo. E se qualcuno di noi qua ha una sofferenza, anche se non ci vediamo da mesi, è una sofferenza di tutti, dispiace a tutti. Preghiera, che torna due volte, Eucaristia, che è messa lì. C'è nel riassunto, ma non è il cuore del discorso. Effetti, che sono importanti, ma al cuore l'essere insieme, la dimensione comunitaria, la dimensione relazionale, anzi, neanche di relazione con Dio, ma di relazione dentro la comunità. Luca è spietato qua. Dice che il cuore della Chiesa è lo stare insieme, l'avere uno spirito solo. Ci sono tante cose intorno che non si buttano via, non sono brutte, ma sono secondarie, Eucaristia compresa. Che come dire, che tra l'altro anche il Vangelo un pochino lo dice, cose simili, non può parlare di Eucaristia esplicitamente, ma se un tuo fratello ha qualcosa contro di te mentre stai presentando l'offerta nel Tempio, dice Matteo, e Matteo sa benissimo che i cristiani non le presentano più le offerte nel Tempio, fa dire quello a Gesù, perché è chiaro che Gesù non può dire mentre fate l'Eucaristia, che non vi ho ancora spiegato perché non sono neanche ancora morto, non ha senso, però è chiaro che un cristiano automaticamente sente l'offerta nel Tempio e pensa alla presentazione dei doni in chiesa. Cioè, non è un adattamento stranissimo. Lascia lì la tua offerta e vai prima a riconciliarti. E attenzione, perché lì anche il Vangelo è cattivo, eh? Non se hai qualcosa contro un tuo fratello. Se un tuo fratello ha qualcosa contro di te, ha ragione o no? Fa niente. Fa niente, perché esattamente lì gli esempi sono facili, anche come in una famiglia. Se mia moglie ce l'ha con me, e va bene, io penso anche ad aver ragione, e magari faccio anche il muso per 2 ore, però poi cerco di fare pace, perché che cavolo, mi interessa più l'armonia che l'aver ragione o torto. È questa. Poi gli altri due sono anche interessanti, ma uno è quello che ho già citato, condivisione dei beni, con l'esempio in positivo, che già uno dice sì, ma con tutti, perché mi fai un esempio, e poi quello in negativo, che è ancora, che è stranissimo, perché sa di magico addirittura, ma fa niente, condivisione dei beni, lo facevano davvero, possiamo avere qualche piccolo dubbio, anche solo a partire dal testo, ma in qualche modo Luca coglie che quello era l'ideale, doveva essere così, avrebbe dovuto essere così. Non si è mai applicata una condivisione, almeno forse in qualche piccola comunità. Qualcuno dice che in realtà Gerusalemme si faceva, ed è uno dei motivi del fallimento economico per cui erano in crisi e hanno dovuto raccogliere l'elemosina per la grande colletta per la chiesa di Gerusalemme, può darsi. Ma al di là di tutto, normalmente nella Chiesa la piena condivisione dei beni non si è fatta. Non vuol dire che non sia un ideale, che i beni non siano la prima cosa. E quando arriva finalmente di nuovo un documento ecclesiale a ribadirci che i beni sono fatti per una destinazione comune, Laudato Si, finalmente lo si ridice, perché non è principio di abolizione della proprietà privata di per sé, ma il dire è secondario, conta più la relazione e sono strumenti, ma vabbè. E il terzo è più un riepilogo verso l'esterno. Tutti erano stupiti perché nella Chiesa si facevano miracoli e godevano di grande stima. Si facevano miracoli verso l'esterno, non per quelli dentro, per quelli fuori. Una comunità che non si tiene i suoi doni tra di noi, perché siamo noi, ci vogliamo bene, siamo tutti dei nostri, no, che dona ciò che ha. Con lo spirito di Pietro, quando trova il paralitico, guarda, io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, cammina. Questo ti do. Una chiesa che non ha paura di dare. Per la carità, ci sono anche nel nostro mondo ecclesiale. La Caritas non è una parte secondaria della Chiesa, è forse dove cogliamo... Sì, lì c'è verso l'esterno quello che la Chiesa è, o dovrebbe essere. Terza tappa, perché ho pietà anche di voi, poverini, che mi ascoltate da troppo tempo. Non faccio la pausa adesso solo perché così poi chiudiamo e ci prepariamo per la messa serenamente senza dover di nuovo immaginare di dover tornare a sentirmi ancora. E poi dopo pranzo invece condividiamo e io ascolto stavolta finalmente. Dicevo che terza tappa, finalmente arrivo al nostro Matteo, che è interessante e che, come spesso succede a Matteo, ci è un po' in prima battuta ostico, non è colpa sua. Di nuovo, parliamo lingue diverse, non perché il Vangelo sia stato scritto in greco, quello è il meno, perché le traduzioni sono quelle più facili, ci arriva anche Google a farci le traduzioni, male, ma ce le fa. Il problema è il sottinteso culturale che sta dietro, e quello è sempre il problema. Cioè, questo che tu hai detto, cosa vuol dire per te? L'esempio qui lo posso fare, io ho scoperto a Saluzzo che non lo posso più fare, un po' perché trovo davanti dei giovani e perché evidentemente Saluzzo parla un piemontese diverso, però non gli dice niente sta cosa che sto per dire, invece qua mi sembra di sì. Se io mi limito, vabbè, perdonate la variante dialettale mia che come al solito il Piemonte sono 200.000 patrie, se io dico di due giovani cui due sparlu, e lo traduco in italiano, quei due si parlano, non l'ho tradotto. Cioè, chi mi sente non ha capito di cosa sto parlando. Peggio, è convinto di aver capito, che peggio ancora, Perché, sì, vabbè, si parlano. No, non è quello. Cosa, cioè, hai detto quello? Sì, ho detto quello. Però il sottinteso è un altro. Questo è addirittura un esempio estremo, perché è una formula che parla d'altro. È una formula che nello stesso tempo tradisce una cultura alle spalle che è interessantissima. La traduzione di quello dovrei dire escono insieme. E il passaggio dal parlarsi all'uscire è culturalmente interessante. Lì dietro c'era un mondo che riteneva che l'essenziale di questa relazione profonda, intima, fosse il parlarsi. Bello. Forse il passaggio all'uscire, lo so che non vuol dire solo quello, tanto che esci parli anche, lo so, però intanto la formula scelta è quella. Peggio ancora stanno insieme. Che no, può essere tanto, in fondo siamo partiti da lì, no? Dallo stare con Gesù. Però, vabbè, solo per dire, non basta tradurre, bisogna cogliere cosa c'è dietro. Cosa vuol dire quella formula? E Matteo su questo ci è a volte un po' ostico, perché scrive per cristiani che vengono dal mondo ebraico, che hanno una conoscenza profondissima dell'Antico Testamento, a cui bastano pochi cenni per cogliere, solo che noi quella conoscenza dell'Antico Testamento normalmente non ce l'abbiamo, e quindi i pochi cenni noi non li cogliamo. Siamo come davanti ad un film zeppo di citazioni cinematografiche dato a vedere a dei bambini di 10 anni che tutti quei 200 film citati non li hanno visti. Allora si perdono le citazioni, ma se si perdono le citazioni si perdono troppo. Sì. Sì, se lo perdono. Finché non c'è qualcuno che glieli spiega o che gli fa fare tutto il cammino di vedere tutti gli altri 200 film. E poi rivedere il film in questione. Allora, io provo soltanto a... Non è così drammatica la situazione anche leggendo Matteo, però un po' di fatica in più la facciamo. Luca ci è più immediato. Luca parla il nostro linguaggio. Ha in grandissima parte, 2000 anni sono comunque passati, però in grandissima parte i nostri sottintesi. Scrive per cristiani che vengono dal mondo greco, che è quello nostro, è quello che abbiamo noi alle spalle, con cui anche noi continuiamo a ragionare. E quindi... Non è un caso che Luca è più facile. Sì, è più facile, perché parla il nostro linguaggio. E una volta che ce lo traducono in italiano, abbiamo già cogliamo almeno il 90% dei sottintesi e quindi è tutto molto più agevole. Matteo, un po' meno. Allora, Matteo struttura il suo materiale in gran parte in 5 grandi discorsi di Gesù. Anche lì 5, 5 per un ebreo, automatico, a noi no, viene il rimando al Pentateuco. Vabbè, solo perché 5, però quei 5 sono 5 pesanti, importanti, sono... è un po' come, adesso giusto per capire, senza essere appassionati di sport, già solo per il fatto che si viva in Italia, se io dico la Serie A o la nazionale, ancora peggio, si pensa alla nazionale di calcio maschile. Ma io non l'ho detto, la nazionale può essere qualunque, può essere anche solo una composizione di filosofi, che ne so io, che non fanno sport, la nazionale. E no, però culturalmente il rimando è quello. Automatico. Non ci pensiamo di farlo. E possiamo benissimo essere gente che non è appassionata di sport, non segue il calcio, non fa niente. Viviamo qua. E quindi, 5 sono il Pentateuco. 5 discorsi. Oh, come Mosè. Che poi i 5 libri del Pentateuco non sono 5 discorsi, ma non fa niente perché si presta il rimando. Come Mosè, sì, è il nuovo Mosè. Qui in particolare sta parlando di comunità, di chiesa. E arriva dal perdono. Se il tuo fratello pecca contro di te, prendi, poi appunto Matteo, quindi impostazione un po' fastidiosa a volte, perdono, molto legale, ma è il mondo ebraico che è così, prendi prima 2 o 3 persone, poi se non ti ascolta, dillo al sinedrio, se non ti ascolta, allora sia, ok, un tentativo di mettere insieme le dinamiche in un contesto che è ecclesiale. È un contesto che non preveda... Qual è il senso di questa procedura? È di dire, non denunciarlo, non rompere, magari ci sarà da arrivarci, però prova prima a recuperare la relazione. Prendi 2 o 3 persone, prova a parlargli, vuol dire, proviamo a gestircela parlandoci, recuperando la relazione appunto, senza ufficializzare. Poi proviamo a passare al sinedrio, la ufficializziamo, però l'obiettivo di nuovo è quello di recuperare. E poi vabbè, può anche darsi che si arrivi a dover tagliare, eh? È anche previsto, però come punto d'arrivo di una relazione che non è riuscita a sopravvivere. E è qua che poi si aggiunge quello che è legato in cielo, quello che è legato in terra sarà legato in cielo e non viceversa, quello che scioglierete sarà sciolto. Perché vi dico che qualora 2 si mettono d'accordo, 2 di voi, sulla terra, su qualunque cosa che chiedano, siate sicuri che sarà ascoltato dal Padre che è nei cieli. La dinamica è questa, si parte dalle tensioni, si può arrivare addirittura a rompere, sì, ma che sicurezza ho che, e qui Matteo è molto rigido, molto più di quello che a noi piacerebbe, lo so, è culturale. Che sicurezza abbiamo di aver fatto la scelta giusta? Stai tranquillo che la scelta che hai fatto tu varrà anche nei cieli, vale presso Dio. Per noi è un eccessivo chiudere. Ma magari quella persona è ancora in relazione con Dio, eccetera, perché abbiamo una mentalità greca, che pensa che poi l'intimo del cuore è quello che conta, giusto, sembrerò d'accordo su questa affermazione anche gli ebrei, ma... A loro interessa calcare la mano su un'altra cosa, a noi interessa sempre calcare la mano sulla libertà, perché siamo particolarmente sensibili a questo, non è un male, va bene. Ma loro parlano un'altra lingua, per loro è più importante sapere che Dio sta al gioco degli uomini, che non è che gli uomini sbagliano e Dio non li segue più. Il senso è quello, faccio in tempo, sì. Quanto siete pazienti e quindi io abuso di voi. Il senso è quello di di un dibattito che c'è nel Talmud. Anche questo devo averlo già raccontato qua, perché è un brano che mi piace particolarmente. Invecchio, sto continuando a ripetere le stesse cose, mi piacciono e mi piace raccontarle. Ci sono due discussione rabbinica, due posizioni sulla questione il rituale non fa niente, in cui Rabbi Ezechiel, Rabbi Akiva deve essere quello che cerca di dimostrare una cosa, e alla fine, visto che i dibattiti dentro alle discussioni rabbiniche sono secondo certi criteri, certi argomenti si possono portare, altri no, e poi si va a votazione dopo tutta la discussione. Quindi non è che puoi dire è così perché lo dico io. E Rabbi Akiva ci prova dicendo: allora, se ho ragione io, quest'albero qua fuori si sradichi e si pianti 10 metri più in là, e l'albero lo fa. Rabbi Ezechiel dice: allora, sta a sentire, no, questo non è un argomento di discussione rabbinica, quindi per favore albero torna al tuo posto, perché l'albero disciplinatamente ritorna al suo posto e va avanti così, e il fiume inizia a scorrere verso l'alto e lo fa. No, fiume, per favore, qui stiamo discutendo, siamo tra rabbini, questo non c'entra, quindi vai pure giù tranquillo, e così via. Diversi episodi di questo tipo. Alla fine passa la posizione di Rabbi Ezechiel, e il lunedì Rabbi Akiva al mercato trova l'angelo Michele, vabbè, cose che nel mondo succedono, lo riconosce e gli dice: allora, toglimi solo una curiosità, perché io lo so che abbiamo sbagliato. L'Altissimo, benedetto egli sia, come ha preso la decisione sbagliata nostra? L'Altissimo è rimasto un attimo perplesso, poi si è fatto una risata e ha detto: i miei figli mi hanno giocato. Cioè, è la dimensione ebraica, dice: guarda che se ci mettiamo d'accordo noi, Dio sta ai giochi nostri, perché lo so che è superiore a noi, però ha deciso di fare un patto, e se noi decidiamo così, si adegua anche lui. Anche perplesso, magari, però, e questa è la dinamica del dire: quello che avrete legato sulla terra sarà legato in cielo. Vuol dire, Dio sta, ci sta. Siate responsabili, perché quello che passa da voi poi funziona di là. Ma Dio non vi sorpassa, non vi trascura nelle sue decisioni. Per noi sarebbe più importante salvaguardare la libertà, lo so, ma appunto. Poi si parlerà di perdono dentro la Chiesa vera e propria. Dopo, il passo che mi interessa, Pietro dirà: ma se qualcuno pecca contro di me 7 volte, lo devo perdonare 7 volte? Appunto, come sappiamo, 70, non ti dico 7, ma fino a 70 volte 7. Cioè, ci sta dentro insieme, ma è incoerente con quella frattura di prima? Sì, è incoerente, ma perché il mondo ebraico non è disturbato dalla incoerenza. Preferisce presentare in modo netto, limpido, i diversi aspetti, e sì, però li devi mettere insieme. E beh, poi li metterai insieme, però noi preferiamo delle definizioni che siano già comprensive. È questione di orizzonte, di approccio mentale. È la stessa cosa che fa Gesù, che è un ebreo. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, è simile a un tesoro in un campo. Cos'è c'è di simile un tesoro in un campo con il granello di senape? E no, vabbè, però i vari elementi tutti insieme ti danno il quadro, e te lo danno in modo incoerente. Sì, ma fa niente, poi il quadro più o meno esce. È questione di testa, non è giusto o sbagliato, è diverso però da quello che facciamo noi, questo sì. Arrivo finalmente a quello su cui chiudo. Infatti, dove due o tre sono raccolti, radunati verso il mio nome, là sono in mezzo a loro. Dunque, di solito il lavoro che sto per fare è discutibile, cioè nel senso andare a vedere ogni piccola parolina, per meglio dire, è discutibile quando è l'unico argomento. Cioè io non posso costruire il discorso che ho fatto per un'ora e mezza solo su questo, su quello che farò adesso, andare a vedere. Ma quando le paroline corrispondono e sono in sintonia con una logica più grande, allora sì. Anche qua ripensiamo alle nostre relazioni. La battuta particolarmente efficace di una persona che so come la pensa, come si comporta e so che quella battuta è coerente con il suo modo di fare, la prendo come slogan. Ma se quella battuta non è coerente con il suo modo di fare, penso che mi sono sbagliato, ho capito male o si è espresso male. Cioè, non basta la parola, non dovrebbe bastare. Poi i nostri giornali ogni tanto lo fanno, di prendere la parola fuori dal contesto, di usarla, però ci accorgiamo anche noi che non si dovrebbe fare, che è abusivo. Radunati, raccolti. La radice sinago è la stessa della sinagoga che nel mondo dell'Antico Testamento tradotto in greco non è prima di tutto l'edificio, ma è prima di tutto la comunità che si raccoglie. La stessa cosa è successa con Chiesa. Chiesa di per sé era la comunità dei credenti. Poi, vabbè, per analogia, per passaggio è diventata anche l'edificio, ma non possiamo pensare che sia la prima cosa l'edificio, anche per noi. Noi parliamo di chiesa serenamente parlando di edificio e parlando di comunità, o una cosa o l'altra, non sono identiche, ma sì, ho capito, però dal contesto più o meno ci si capisce. Ossia, usare quel raccolti, radunati, non è soltanto un «oh, ci siamo trovati», no, ci siamo trovati in qualche modo convocati come minimo con un obiettivo che è anche spirituale. Per dirlo in modo più serio, ci siamo trovati, come dicevo prima, perché siamo tutti con la percezione di essere chiamati da Dio. Ed è per questo che ci troviamo insieme. Cioè c'è una dimensione che è ecclesiale. Quel radunati, due o tre radunati, non sono due o tre che si trovano casualmente al bar, sono due o tre che si ritrovano nella relazione con Gesù, come tra un attimo si chiarisce, e con una dimensione che ha dello spirituale, ha dell'ecclesiale. Questa allusione noi non la cogliamo, confesso che succede, mica tutta la Bibbia la approfondiamo, io mi sono messo a studiare questo brano e prima ancora di andare a leggere altre cose ho detto, vabbè, ma sinagmenoi, cavolo, qui c'è il rimando alla sinagoga, non me ne ero accorto altre volte, non, però c'è, e a un lettore ebraico, un lettore per dire meglio ebreo, che magari non sapeva troppo bene l'ebraico, ma che conosce il greco e legge il greco, questa allusione viene subito, subito, non c'è neanche da sforzarsi. Esattamente come per noi, se dovessimo dirci, ci siamo trovati in chiesa, la dimensione anche spirituale e religiosa comunque ci viene in mente. Poi scopriamo che ci siamo trovati in chiesa perché era l'unico posto che ci permettesse di fare un'assemblea che tenesse così tanta gente, però questa dimensione qua resta, al punto che qualcuno potrebbe dire ma forse magari in chiesa non è il caso perché non ha niente di spirituale, appunto, non è un problema il fatto che sia comodo come luogo. Quindi due o tre radunati non sono semplicemente lì, sono radunati dentro ad un orizzonte, che è quello verso il mio nome, nel mio nome. Ed è un po' una forzatura grammaticale, però affascinantissimo il fatto che nel mio nome, noi probabilmente italiani lo leggiamo innanzitutto come stato. Sì, vabbè, in nome mio vuol dire a nome mio, vuol dire parla per me, però la formula nel mio nome è, al limite ci rimanda ad uno stare dentro, fermi. In greco ha l'idea di movimento, verso il mio nome, che è affascinante, perché uno, è vero che non possiamo dire di aver adeguatamente vissuto la relazione con Gesù, che siamo sempre in quella dimensione di prometto di tendere verso la perfetta. Ma due, se siamo sinceri, è esattamente la dimensione di qualunque tipo di relazione. Cioè, le relazioni sono così. Io non sono mai perfettamente con l'altro. Tendo verso. E questa dimensione di attrazione è esattamente quella che ci porta insieme. Tendo verso vuol dire che non sono come l'altro, ma che vado verso l'altro, che vorrei essere come l'altro, con l'altro, sovrapposto all'altro, un cuore solo, un'anima sola, e che appunto vado verso. È esattamente la dimensione relazionale. Dentro ad una legge, io sono o dentro o fuori. Perché non posso dire sto cercando di compierla, no. O adempi o no. Anche di poco, sei fuori. Ma in una relazione invece no, questa tensione è sempre presente, perché non potrò mai dire di averla fatta, sono a posto. Cosa vuol dire sei a posto? E lì lo spiazzamento del Vangelo, che non ti dice devi fare tutti questi 613 precetti, deve dirti ama il prossimo tuo. E che cavolo ama? Quando è che ho finito d'amare? Mai. Non c'è un momento in cui dici ho fatto abbastanza. E nello stesso tempo non c'è mai un momento in cui dici non l'ho fatto. No. Sei sempre lì in mezzo. Sei in una dimensione di tensione verso. Che è quello. È la dimensione, quindi quella, che più autenticamente interpreta la nostra dimensione umana più profonda. Nelle cose più profonde della nostra vita noi viviamo questo. Tendiamo verso e non ci arriviamo mai. Ma nello stesso tempo il fatto di non arrivarci mai non fa di noi dei falliti. No, perché tanto sono lì dentro, sono in quel processo. Il fatto che la relazione, appunto, le relazioni d'amicizia, le relazioni di coppia non siano perfette, non vuol dire che sono sbagliate, sono fallite. Ma no, vuol dire che c'è ancora della strada da fare. Sei già dentro alla relazione, pienamente, veramente, e nello stesso tempo non è perfetta, certo, verso Gesù, i due riuniti verso il mio nome, che poi il nome sia un modo per dire la persona, non è una stranezza e nell'ebraismo lo è ancora più scontato, là sono, in mezzo di loro. Allora, ultime due cose, davvero, promesso. Intanto parto da in mezzo a loro. In mezzo vuol dire è per qui, sì, vuole anche per, può anche voler dire dentro. E non è che ci sia da scegliere. C'è. È qua. È qua tra noi. Ed è qua in ognuno di noi, presente. Di per sé non ci sarebbe neanche bisogno di scomodare chissà quale presenza mistica, spirituale, magico, religiosa, sacramentale, eccetera. È la dimensione umana. Posso dire serenamente che, senza divinizzarlo, Donji è tra noi. Perché noi siamo qua, in questo posto, perché ci siamo conosciuti grazie a lui, grazie a quello che ha fatto, grazie agli studi che ci ha fatto fare. Magari qualcuno di noi, no, non mi sembra, però non è neanche impossibile che non lo abbia conosciuto, ma non fa niente, perché il giro grande è quello, è di chi ha conosciuto lui ed è cresciuto con il suo stile nella relazione con il Vangelo. Parlo per me, non posso neanche dire che mi abbia formato, perché io l'ho conosciuto tardi, cioè si sapevo che esisteva, e già ne avevo sentito parlare bene, però, e ne avevo letto delle cose anche, quindi quelle cose mi hanno anche insegnato, e poi sono entrato in sintonia più tardi, perché abbiamo lo stesso tipo di rapporto con la Bibbia, eccetera, e lui su alcune cose più profondo, più serio, su altre magari ho studiato un po' di più io, eccetera, ma chi se ne importa, siamo in sintonia, è presente, senza che questo diventi nulla di magico o di evocazione, che ne so io. Eppure c'è. Poi è chiaro che in una dimensione religiosa assume anche un altro aspetto, cioè assume una promessa di presenza divina nella sua comunità, di non abbandonarla, non lasciarla, non è semplicemente la sua eredità, è la sua presenza. Cioè non è una contraddizione con quello che ho detto prima, ho detto non ci sarebbe bisogno di, vero, non ci sarebbe bisogno, ma nello stesso tempo non è neanche un'esclusione di quello che c'è in più. Quello che vivono i cristiani nell'Eucaristia è semplice ricordo, e il semplice onestamente devo mettere molto tra virgolette, perché un ricordo non è mai semplicemente un ricordo. Un ricordo, cavolo, pensiamo alle nostre persone care, amate, eh sì, me ne ricordo, non nel senso che non lo dimenticate, no, nel senso che il suo insegnamento, la sua presenza, il suo calore sono ancora tra me, con me. E questa dimensione vera, è vera umanamente. Per i cristiani, per alcuni dei cristiani protestanti, questa è la dimensione dell'Eucaristia. È un semplice ricordo di Gesù. Non è una banalità, comunque. Per i cristiani cattolici ortodossi c'è altro, una forma di presenza sacramentale autentica che non è tangibile, ma che è autentica. Posso serenamente da biblista permettermi di non entrare nella disputa. Non c'è bisogno di risolvere. Io da biblista dico non importa, perché che sia declinato, chiarito in un modo o nell'altro, questa presenza che non è semplicemente una presenza di conoscenza, ma è una presenza di stimolo, di animazione, di calore, è persino sperimentabile a livello puramente umano. E quello che viene promesso è che Dio sarà presente così, che sarà presente realmente, che sarà fa niente i termini, appunto non posso permettermi di non essere né filosofo né teologo, il biblista si accontenta di intuizioni. C'è, è presente, e ci dice anche che questa dimensione della Chiesa, della presenza, non è soltanto un accordo umano, ma è un'apertura trascendente, è un'apertura a quell'orizzonte di senso ultimo che nel cristianesimo è chiaramente una persona, come minimo è Gesù, relazione con Lui, una persona umana che è vissuta, che conosce cosa vuol dire la concretezza della carne e della vita umana piena, autentica. Sono in mezzo a loro. Volendo raccogliere, ma veramente molto molto molto veloce adesso, è forse la pienezza del discorso a questo punto. Cosa tiriamo fuori? Al cuore del discorso stanno le relazioni. Le relazioni con Dio, va bene, ma addirittura il Vangelo è abbastanza cattivo. Innanzitutto le relazioni umane. La lettera di Giacomo sarà altrettanto cattiva. Non contano le opere, va bene, ma io con le mie opere ti mostro la mia fede. Se c'è uno che ha bisogno e tu non lo accogli nella tua comunità, tu non ami. Se tu dici al ricco siediti qua in bel posto, al povero siediti laggiù, tu non hai fede, perché non ti fidi di un Dio, di un Gesù che non si è comportato così, che ha impostato diversamente la sua esistenza. Non mi sarebbe dispiaciuto ancora approfondire cosa vuol dire un'esistenza sul modello di Gesù, ma direi che ce n'è già abbastanza e tanto probabilmente lo sappiamo, lo capiamo bene, e quindi per gli altri è in apertura al rapporto con Dio, col Padre. È sufficiente, io spero che in qualche modo tutto questo ci possa aver nutrito, scaldato un po' il cuore se capita, e ha aiutato. No? I piedi no, accidenti. Io volevo la completezza. Hai ragione, è una tensione giusta, legittima, che ci dice che ancora siamo in cammino. Il giorno in cui riuscirò a scaldare anche i piedi sarà già meglio. Grazie.